L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, eccoci qua con l'altra Europa, come ogni settimana il nostro appuntamento in collaborazione con Euronet Plus, network di radio europee, tutti insieme per raccontare in tante lingue, con tanti punti di vista diversi, quella che è l'Unione Europea, quelle che sono le ricadute nella nostra quotidianità. Noi nel nostro spazio cerchiamo anche di parlare d'altro, non seguire solo l'attualità politica ed economica che viene raccontata quotidianamente da Radio 24, ma cerchiamo altre porte, cerchiamo altre sfumature. Euronetplus.eu, il sito di Euronet, chiocciola Euronetplus R24 per trovarci su Twitter, oppure i miei account personali su tutti i social network, quindi non solo Twitter ma anche Facebook. Ogni settimana un viaggio, questa settimana partiamo da Venezia, partiamo dal cinema, perché l'Europa può essere raccontata anche attraverso i suoi film. Es una historia eterna que llena todo el alma, tan dulce tipo siente. It's a romantic sweet. Ma guardi, adesso non posso parlare. E comunque per tutte queste informazioni dovrebbe passare attraverso il nostro comune amico. Necessito il l'amputal. Dos. Tieni. Si chiama Grimaldi. Stai attenta. Buongiorno. Sono nelle sue mani. Telefono tuo. Hai un altro telefono? No, non è il mio. E poi ti spiego. Ieri sono venuti i carabinieri. Hanno chiesto di lei. Bisogna mandare l'operazione, c'è stato un equivoco. Non ci siamo capiti. Ci siamo capiti benissimo, l'operazione è conclusa. Cosa sta facendo? È diventata pazza. Ma tu dici solo cazzate? Ma che cazzo fai? Che vai a fare in Messico? Non possiamo sempre sapere qual è il limite del nostro intervento, non c'è una regola. Quello che state ascoltando è il trailer del film Miele, la regia di Valeria Golino. È uno dei tre finalisti, il finalista italiano della settima edizione del premio Lux, il premio che il Parlamento europeo ha istituito per così appunto per premiare, per celebrare, per segnalare quelli che sono i film che parlano di Europa, che sono film non solo che parlano di Europa, ma sono soprattutto film di produzione europea. E sono stati presentati i tre film, adesso vi dico anche gli altri due titoli, il 5 settembre all'interno della Mostra del Cinema di Venezia. Ricordiamo che lo scorso anno il premio Lux tra l'altro è stato vinto da Andrea Segre con Io sono lì. E alla cerimonia di presentazione, perché sarà un lungo tour, questi tre film verranno presentati in tutti i 28 stati membri dell'Unione, e c'era anche l'onorevole Silvia Costa, membro della Commissione Cultura del Parlamento Europeo e relatrice del programma Europa Creativa. E Silvia Costa è qua con noi, buon sabato onorevole. Buon sabato anche a voi e grazie di questa attenzione. Allora, il Premio Lux è sempre un appuntamento annuale dove a noi piace tornare, perché insomma è qualcosa non solo di simbolico, è un esempio concreto dell'impegno, certo, dell'Europa per il cinema vuol dire per la cultura vuol dire per la creatività. Intanto questa giornata com'è andata? È stata una giornata molto interessante, perché noi abbiamo praticamente concentrato in una giornata e mezzo più o meno sia la presentazione dei tre film in concorso che lei ha ben ricordato, e fra cui Sonfiera, che ancora per il secondo anno a questa parte presente anche una regista, in questo caso donna italiana. Eravamo io con la Presidente della Commissione Cultura Doris Pack, e abbiamo anche organizzato, promosso un'iniziativa insieme alle giornate degli autori, che sono fra l'altro i veri ospiti di questa, che hanno deciso dall'inizio, quasi dalla nascita di questo premio, che è nato nel 2007, di ospitare questi eventi e questa attenzione al premio Lux all'interno della Biennale di Venezia, e questa è una cosa che ha fatto anche crescere il premio. E poi abbiamo fatto una cosa molto, molto bella per quanto mi riguarda, perché la mattina abbiamo incontrato i 28 ragazzi provenienti da 28 paesi europei, perché quest'anno c'è anche la Croazia, certo, che sono selezionati come fra i finestri ragazzi cinefili o che sono impegnati nel cinema, che poi sentono la responsabilità di continuare poi quando tornano ai loro paesi a dare segnali e diciamo continuità a questo loro impegno, e abbiamo avuto un bellissimo scambio con loro sulla cosa intendono loro per cinema, il futuro del cinema in Europa, le politiche culturali europee e quindi anche il futuro dell'Europa, che senza la cultura non c'è. Quindi è stata una giornata intensa, ma soprattutto credo che sia stato sia molto importante il fatto che questo premio che ha visto per primo il Festival di Venezia, devo dire tutti i paesi membri ad accoglierlo, sta diventando un premio che cammina diciamo attraverso anche festival di altri paesi. Sono stata per esempio a Carlo Vivari nella Repubblica Ceca, a Praga, dove sono stati presentati 10 diciamo selezionati, e poi invece a Roma, a Casa del Cinema, abbiamo presentato i 3 finalisti e li abbiamo fatti vedere qui a Venezia. Quindi è una sorta diciamo di percorso europeo, e a dicembre la giuria finale sarà fatta proprio dal Parlamento europeo, quindi 754 colleghi che vedremo e voteremo. Allora ricordiamo gli altri 2 titoli, che sono The Broken Circle Breakdown, del film belga, e poi The Selfish Giant, invece questo è un film del Regno Unito, questi 3 film in gara. Sì, inglese, e sono film molto diversi fra loro naturalmente, ma toccano tematiche molto umane, molto, alcune anche molto problematiche, penso al film dell'Agolino, ma con una volontà di non fermarsi al titolo, diciamo, ma di andare in profondità e di essere, perlomeno so, di essere abbastanza problematici e di non essere ideologici nell'approccio e neppure superficiali. Questo è il loro merito. Certo. Poi vinca il migliore. Ovviamente. Onorevole Costa, come sta il cinema in Europa? Il cinema in Europa è una fase di grande trasformazione, anche indotto dal digitale, dal fatto che c'è naturalmente, quando c'è una crisi come questa, anche se le industrie culturali e creative sono fra quelle che stanno tenendo più, diciamo, sono un po' considerate un po' anticicliche, perché ormai rappresentano circa un 7% del PIL europeo, impiegano oltre 1 milione di persone, oltre 6 milioni di persone, e sono circa 1 milione di imprese. Però adesso la crisi, anche dal punto di vista dei consumi, ha messo in difficoltà naturalmente anche cinema, c'è la grande concorrenza del network, e quindi su questo bisogna che noi ci attrezziamo anche come regole, e abbiamo fatto bene, credo, in Europa a fare la battaglia perché venga mantenuta l'eccezione culturale nei rapporti commerciali, bilaterali, perché la cultura è anche un fatto giustamente di produzione industriale, ma è anche, ha un valore intrinseco in sé e ha una sua specificità. Noi stiamo lavorando, come lei prima ricordava, al nuovo programma europeo che si chiama appunto Europa Creativa, di cui sono relatore e sono felice di dirle, così è una delle primizie che le sto dicendo, che il 17 di settembre voteremo in Commissione Cultura il testo, diciamo, frutto di un complesso e difficile negoziato. Immagino. Tra Parlamento, Consiglio dei Ministri e Commissione. Abbiamo preservato, nonostante i tagli del Consiglio dei Ministri su tutta la programmazione europea, anche in altri settori, abbastanza il budget, per cui siamo a circa quota 1,5-1,6 miliardi, comunque un 30% in più del settennio precedente. Insomma, mi sembra un ottimo traguardo, ne parleremo sicuramente poi. Senz'altro. Anche perché crediamo che questa parola creativa, la creatività possa essere veramente, possa dare una svolta a quella che è la crisi. E grazie della vostra attenzione. Europeo. Grazie a lei, a presto. Buongiorno, auguri, buon sabato. Nationen. 120 Millionen Zuschauer. Das größte Musikmega-Event der Welt. Das ist der Eurovision Song Contest 2013 in Malmö. Welche Nation hat den besten Song Europas? Quello che state ascoltando è uno spot in tedesco dell'Eurovision Song Contest. L'abbiamo scelto per introdurre il prossimo argomento, dove si parla di quel strano intreccio, ma importantissimo, ma fondamentale, anzi forse proprio la cosa che manca, quello strano intreccio tra Europa e quotidianità. Quanta Europa c'è nel nostro giorno per giorno, nella nostra vita comune, questa distanza tra appunto il nostro giorno normale, la nostra vita e quello che succede nel palazzo, questa Europa che tante volte non capiamo, che tante volte ci sembra solo una zavorra o un gioco o un qualcosa che impone e basta, quando invece le scelte fondamentali sono prese là, ma le scelte piccole, le scelte veramente che vanno a influenzare la nostra vita. E da una riflessione simile a questa nata l'idea di una ricerca di cui sono stati presentati i primi dati in questi giorni. Si chiama EU Cross, l'europeizzazione della vita quotidiana. Questo è un po' il sottotitolo scelto nel comunicato stampa. La ricerca è stata finanziata dalla Commissione europea all'interno del 7° programma quadro ed è stata coordinata dall'Università d'Annunzio di Chieti Pescara. Con noi c'è il professor Ettore Recchi, che è responsabile scientifico del progetto, professore ordinario di sociologia politica dell'Università di Chieti Pescara. Si è occupato molto di cittadinanza europea e libera circolazione in Europa e anche da poco uscito un saggio per il Mulino intitolato Senza frontiere. Buongiorno professor Recchi. Buongiorno, buongiorno. È bella questa parola europeizzazione, che non deve spaventare, vero? No, diciamo che se riusciamo a pronunciare globalizzazione, riusciamo a pronunciare anche europeizzazione. Con questa indagine avete tentato di scavare principalmente sulla consapevolezza di quanta Europa ci sia in noi oggi? Ma più che la consapevolezza, proprio le pratiche, anche le pratiche banali di cui è intessuta la nostra vita e di cui nemmeno ci rendiamo conto. Fino a una trentina di anni fa, attraversare le frontiere o avere rapporti con persone al di fuori dei confini nazionali era veramente molto insolito. I poveri perché emigravano, avevano parenti all'estero, e i più ricchi perché potevano permettersi di fare le vacanze a Parigi, Londra, New York, ma le classi medie, il corpo medio, intermedio della società viveva una vita nazionale, una vita molto ancorata in quella scatola ovattata che è la società stato nazionale. E le cose sono molto cambiate. Uno dei cambiamenti sociali maggiori del nostro tempo è il fatto che ci affacciamo fuori, non solo muovendoci, non solo viaggiando, il che pure è importante, ma anche avendo relazioni via Facebook, via Skype, attraverso i consumi culturali. Certo, ma è comunque una mobilità oltre che fisica, probabilmente anche concettuale, cioè proprio l'abitudine a pensare e ad agire senza frontiere. L'indagine, un'indagine telefonica su un campione casuale di 8.500 residenti, 6 paesi membri dell'Unione, Italia, Germania, Spagna, Regno Unito, Danimarca e Romania. Ci può così dare qualche dato per capire quello che è il succo della ricerca? Sì, partiamo dalla mobilità fisica, che in fondo è l'aspetto più visibile di questo attraversamento delle frontiere. Il 51% degli europei del nostro campione nell'ultimo anno ha fatto almeno un viaggio in un altro paese dell'Unione Europea. È tanto? Uno su due. È superiore a tutte le nostre aspettative, no? Con delle differenze nazionali importanti che ci vedono in realtà un pochino più rinchiusi dentro la nostra provincialità, se vogliamo. Mm-hmm. Chi sono i più virtuosi? Chi sono i più mobili? I più mobili sono due nazionalità, i danesi, che viaggiano molto soprattutto per turismo, e i romeni, che viaggiano per motivi migrando. Certo, quindi sempre i due estremi. Però guardando anche esperienze un po' più strutturate, per esempio, questa ricerca cerca di colmare un vuoto, no? Noi sappiamo tutto sull'integrazione politica dell'Europa, tutti i giorni seguiamo l'evoluzione di Bruxelles anche attraverso la vostra emittente, eccetera. L'integrazione economica procede a grandi passi, ormai sì. Tutti i paesi dell'Unione Europea i maggiori interscambi commerciali con l'estero sono con altri paesi dell'Unione, e poi c'è un'integrazione sociale e culturale. Ecco, su questa integrazione sociale e culturale abbiamo pochi indicatori, abbiamo poche misurazioni, e noi abbiamo cercato di colmare questo vuoto con tanti indici, appunto, ho detto la mobilità fisica, ma anche per esempio le email. Quante email riceviamo dall'estero? Anche qui il 50% del campione che riceve mail riceve email anche dall'estero, e mediamente il 10% delle nostre mail vengono dall'estero. Oppure le interazioni lavorative. Allora, abbiamo chiesto alle persone se nel loro lavoro avevano interazioni con altri europei. Il 52% dei danesi ha detto di sì, il 38% dei tedeschi, ma solo il 27% degli italiani. È un po' curioso, considerando anche il fatto che l'Italia è un paese di turismo, no? Quindi Professor Recchi, insomma, i dati sono tanti, le sfumature, i dettagli anche. Intanto darei il sito che è eucross.eu, ma magari ci torniamo nelle prossime settimane quando altri dati anche verranno presentati, perché credo che la cittadinanza europea, questo è l'anno della cittadinanza, la cittadinanza passa anche da queste cose, passa da chi inviamo e a chi riceviamo le email, a chi sono i nostri amici, a dove andiamo in vacanza. Ritorniamo lì, è la nostra quotidianità ed è quindi un modo per raccontarci, per conoscerci meglio e per capire, lo ripeto di nuovo, quanta Europa c'è in noi. Quindi professore, ci ritroveremo sicuramente qui in una delle prossime puntate dell'Altra Europa, va bene? Molto volentieri, buona giornata. Buon sabato a lei, grazie. Bueno, tú eres un programador de web. Sí, bueno, llevo relativamente poco como programador web. Estamos haciendo un compañero y yo que ahora está visitando Londres una web. Attraverso comunicazione seriale. Comunicazione seriale è semplicissima. Si scambia le date. Una velocità impressionante. La musica è quella di un party, i rumori di sottofondo erano quelli di una fiera, di un campus. Siamo infatti in collegamento con Londra, dove proprio oggi si conclude il Campus Party 2013, questo festival che ha riunito 10.000 giovani tra programmatori, hacker, imprenditori, il più grande evento dedicato alla tecnologia e all'elettronica. L'Università di Siena è stato l'unico ateneo italiano a partecipare e con noi c'è proprio una senista di ricerca dell'Università di Siena che ha accompagnato i ragazzi, ha partecipato alle attività con loro, sono una sessantina. E diamo il benvenuto a Yolanda Iacono. Ciao Yolanda. Ciao Federico, buongiorno. Allora, è stato più campus o è stato più party? Perché immagino vi siate anche divertiti. Sì, ci siamo divertiti, ma è stato più campus, te lo posso assicurare, per certo. Allora, il Campus Party Europe è la versione italiana di un Campus Party mondiale. L'idea è quella di raccogliere tutti insieme esperti, tecnici, persone legate alla ricerca e all'università con questa passione comune, che è quella della tecnologia. E c'è proprio l'idea di fondo che bisogna fare contaminazione, bisogna fare incontro. So che siete lì, siete ospiti, vivete in tenda tutti insieme, avete dovuto fare questo viaggio in pullman per conoscervi meglio tra di voi. Quindi c'è proprio l'idea dell'integrazione. C'è il patrocinio della Commissione Europea proprio perché si cerca di mettere insieme teste diverse, teste di origini diverse. L'idea è quella proprio di condividere e soprattutto anche stare con gli altri tutti insieme nel campus e anche conoscersi. Attraverso quelle 34 ore ragazzi dei diversi dipartimenti dell'Università di Siena, che prima non si conoscevano, ora sono diventati amici, hanno condiviso un'esperienza davvero indimenticabile da tutti i punti di vista. Yolanda, facci entrare nel clima di queste giornate, cosa avete fatto? Allora, siamo arrivati qui a Londra il 2 settembre al mattino e abbiamo seguito a partire dal 3 tutti i workshop, i keynote speaker, abbiamo partecipato agli eventi che caratterizzano il Campus Party. Sono eventi che riguardano proprio la tecnologia, l'innovazione, la creatività, condividere soprattutto tutto ciò che riguarda un mondo particolarmente che sta crescendo, che si sta evolvendo. Gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con gli altri, di poter quindi anche aver modo di toccare con mano che cos'è il mondo reale dell'azienda, dell'innovazione. Ci sono start-up, ci sono aziende che cercano comunque profili nuovi, profili innovativi, profili giovani, freschi, che vogliono comunque mettersi in gioco. Certo, la parola innovazione ritorna sempre più spesso, per fortuna, all'interno della nostra Europa. Questa settimana è stato sia presentato il premio innovazione, si è discusso tanto dopo l'acquisto di Microsoft della Nokia, no? Altre teste, altre menti, altre eccellenze che escono dall'Europa. Questo è il timore, questa è la paura. Lì invece ci sono giovani eccellenze, ci sono idee fresche, c'è il futuro presente, perché queste cose le avete concretamente viste e le avete anche portate, perché so che voi da Siena siete arrivati a Londra con un bel bagaglio di novità e di curiosità, concedimi questo termine, perché alcune cose sono veramente bizzarre. Ce le vuoi presentare? Abbiamo presentato qui al Campus Party il 5 di settembre i progetti che facciamo all'Università di Siena con il laboratorio di tecnologie e di robotica e tecnologie per l'apprendimento coordinato dalla professoressa Patrizia Marchi. Abbiamo presentato i progetti che seguiamo, in particolare Taro, un progetto di un robot, di una foca robotica utilizzata soprattutto per l'assistenza anche agli anziani durante i processi riabilitativi e rieducativi. Quindi, attualmente in uso a Siena. Comunque. Cioè si fa pet therapy con un robot, con robot a forma di foca? Sì, okay, un robot a forma di foca. E voi in particolare a Siena che parte fate di questa foca? Noi la utilizziamo all'interno delle case di cura, in particolare la stiamo utilizzando anche presso una residenza assistenziale dove la utilizziamo con gli anziani, quindi per poter sviluppare delle competenze sociali, emozionali, quindi anche per favorire l'interazione tra gli anziani che solitamente magari quando sono all'interno di una casa di cura vivono un periodo un po' anche di isolamento, di difficoltà soprattutto nell'inserimento e quindi noi cerchiamo anche di stimolare, di utilizzare il robot come un mediatore sociale, quindi favorire proprio l'interazione. So che c'è anche un cameriere robot che è sempre uno degli altri progetti che state... Sì, ci sono altri progetti attualmente attivi, abbiamo anche un progetto europeo che si chiama Company dove utilizziamo un robot che è nella forma di un assistente, di un cameriere che si inserisce all'interno di un ambiente intelligente che vuole aiutare sempre a favorire la vita degli anziani, renderli più indipendenti a casa. È un robot che si chiama K-Robot e l'idea è quella proprio di favorire l'indipendenza delle persone anziane a casa, ma attraverso anche un processo che li renda più socialmente accettabili, quindi anche da un punto di vista soprattutto emotivo. Certo. Yolanda, un'ultima domanda, un'ultima considerazione, sì. Visto che tra poche ore tornerete a casa, al di là del lato legato alle nuove tecnologie, legato all'innovazione, con quanta Europa rientrate in Italia, rientrate a Siena? Con tanta, devo dire la verità. La cerimonia d'apertura c'era qui la vicepresidente della Commissione europea, Neil Cross, e questo è un evento abbastanza importante che ha un significato anche abbastanza importante per i giovani. Abbiamo avuto modo di conoscere e condividere giovani da tutta l'Europa, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania, e abbiamo condiviso con loro un evento davvero indimenticabile. Campus Party è un'esperienza unica che ogni studente, ogni amante di tecnologia e di innovazione dovrebbe fare, dovrebbe comunque poter partecipare una volta almeno, proprio per vedere e toccare con mano che cosa significa essere un Campus Eros sostanzialmente. Campus.linetaparty.eu, il sito ufficiale dell'iniziativa, sì. Oppure unisi.it, questo è il sito della Università di Siena. Grazie davvero Yolanda Iacono. Grazie. Porta te, il nostro Federico. Saluto a tutti i ragazzi e alle ragazze che hanno partecipato a questo Campus. Ciao e buon rientro. Ciao. Grazie mille, ciao. Zattaria. أول ما جيت على المخيم يعني كان الوضع سيء جدا وكنت بحالة نفسية صعبة بعدين حاولت أنه أتأقلم مع الجو اللي أنا عايش فيه حاولت أدور على شغل ففتحت صالون من يعني وسائل بدائية وكان سعي الإمكانيات ضعيفة بس بنفس الوقت يعني توفي بالغرض. Si sono dati un nome, gli Smartest, sono musicisti siriani in un campo profughi a Zatar in Germania. È un acronimo questo nome, vuol dire i siriani devono liberare la propria energia proprio per mettere al centro la musica, usare anche la musica per cercare di trovare un sostegno psicologico. La crisi siriana, se ne sta parlando tanto, tantissimo in questi giorni, in queste ore, sono tantissimi gli attori in campo e si parla anche molto del ruolo dell'Unione Europea. E noi vogliamo portare il nostro taglio, che non è tanto un taglio politico quanto un taglio sociale in questo caso. Quindi cosa sta facendo l'Unione Europea per i profughi, per i rifugiati, cosa sta facendo ora e cosa potrebbe, dovrebbe fare in caso di guerra. E questa riflessione la facciamo insieme alla dottoressa Anna Di Bartolomeo, che è ricercatrice in demografia presso il Migration Policy Center dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole in provincia di Firenze. Buongiorno Anna. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, i numeri sono numeri grandissimi, si parla di quasi 7 milioni di persone coinvolte in caso di guerra e che dovrebbero avere bisogno poi di assistenza. Attualmente sono 2 milioni i siriani che vivono nei campi tra Libano, Giordania, Turchia, Iraq ed Egitto, quindi già numeri molto significativi. Avete un monitoraggio della situazione, immagino, dei rifugiati siriani, di quello che è e di quello che potrebbe diventare? Ma allora, diciamo che in merito al monitoraggio, Migration Policy Center non ha chiaramente le possibilità di compiere questo monitoraggio giorno per giorno. Certo. Diciamo che l'MPC in effetti è un centro di ricerca che è basato in Italia e quindi anche non ha neanche abbastanza fondi per svolgere delle indagini sul campo che sarebbero necessarie per capire realmente la situazione di bisogno di queste popolazioni. Tuttavia, quello che abbiamo numerosi corrispondenti basati in questi paesi, ricordiamo Giordania, Turchia, Libano, Iraq e anche Egitto, che svolgono delle ricerche sulle condizioni dei rifugiati in loco e delle stesse indagini. In questo senso abbiamo un sito web dove sono pubblicate i risultati di tutte queste ricerche, che abbiamo intenzione prossimamente di aggiornare e di espandere, e diciamo che il prossimo obiettivo a breve termine è quello di svolgere noi stessi un'indagine sul campo in Libano, dove ricordo però i rifugiati non si trovano nei campi per rifugiati, ma in realtà il Libano è l'unico paese limitrofo che ospita i rifugiati all'interno dei quartieri urbani. Uh-huh. E quindi diciamo il Migration Policy Center si pone questo obiettivo adesso. Si parla di 1 milione di persone più o meno in Libano, mi pare. In Libano siamo arrivati, l'UNHCR parla adesso di circa di più di 700.000 persone. Okay. Che in effetti è una cifra impressionante, soprattutto se pensiamo alla popolazione del Libano, che è poco più di 4 milioni. Uh-huh. Quindi parliamo, se non mi sbaglio, all'incirca di un tra un 16 e un 17% come proporzione sulla popolazione stessa. Certo. L'Unione Europea come si sta rapportando con questa emergenza? Ma diciamo che ritornando a bomba sui numeri, è importante, danno un'idea abbastanza chiara di quello che è il ruolo adesso dell'Unione Europea e di quello che poi potrebbe fare. I numeri, abbiamo detto 4 milioni di persone fuggite all'interno della Siria, abbiamo detto 2 milioni di rifugiati nei paesi limitrofi. In Unione Europea dall'inizio del conflitto contiamo all'incirca 46.000 rifugiati di siriani fuggiti al conflitto, 46.000 di cui circa il 67% sono concentrati in due soli stati, che sono Germania e Svezia. In effetti, a partire da questi numeri, si evidenzia già che l'azione politica dell'Unione Europea è una sorta di impegno, mancato impegno o impegno parziale. Per spiegarmi meglio, due punti vorrei sottolineare. Da una parte l'Unione Europea ha stanziato circa 1,3 miliardi per aiutare i paesi limitrofi nell'affrontare questa grave crisi. Questi soldi sono andati sia in assistenza umanitaria, parliamo di ambulanze, parliamo di coperte, parliamo di riscaldamento, sia in assistenza non umanitaria, perché parliamo anche di scuole, di istruzione, di sostegno alle comunità locali, eccetera. Quindi questi sono i soldi dati in effetti a questi paesi, questi 4-5 paesi. Dall'altra parte è anche vero che l'Unione Europea non ha varato ad oggi nessun tipo di provvedimento o raccomandazione per l'accoglienza reale di questi rifugiati siriani nell'Unione Europea. Ad esempio, mi sto riferendo, non so se tutti conoscono, uno strumento di diritto internazionale che si chiama il cosiddetto la prima fase admission, che vuol dire che basta dichiararsi siriano per essere accolto e posto sotto protezione internazionale. Questa è una misura che nell'Unione Europea non è neanche mai stata introdotta nell'agenda. Okay. Mentre cioè molta attenzione si va ad assistere finanziariamente gli stati limitrofi, così che voglio dire loro lasciano i confini aperti, non ci sono raccomandazioni per condividere questa crisi. Mm-hmm. E in effetti questo andrebbe anche contro i principi dell'Unione Europea, che dice che bisogna aiutare persone bisognose di aiuto. Certo. È chiaro che, come le dicevo, nello specifico l'Unione Europea non è i suoi stati membri, e quindi in un certo senso è l'Unione Europea stessa ha lasciato agli Stati membri libertà di autonomia. Abbiamo diverse reazioni positive, abbiamo la Germania, la Svezia, che hanno fatto grandi schemi di accoglienza. La Svezia, per esempio, ha da poco annunciato che garantirà, mi sembra, la residenza permanente a tutti i siriani che sono stati ammessi come richiedenti asilo con protezione temporanea. Anna, un'ultima domanda, ci stava dicendo un po' delle varie nazioni, come si stavano preparando, un po' invece al di là dei numeri, al di là delle leggi, i vostri operatori cosa vi dicono, qual è la situazione, qual è l'umore, qual è il morale che si vive oggi in quelle zone? Ma la situazione dal punto di vista pratico e sociale è molto grave. Varia sicuramente, come dicevo prima, a seconda dei paesi riceventi, e questo è molto importante. Sì. Per esempio in Giordania la maggior parte, non tutti, ma la maggior parte si trova nei campi per rifugiati. Questi campi sono sotto stretta sorveglianza del governo giordano, non hanno libertà di movimento perché non possono uscirne, non possono richiedere un documento di identità che possa permettergli di uscire dai campi. Non hanno diritto al lavoro, non possono richiedere permesso di lavoro, non hanno quindi accesso a un reddito, condizioni di salute, di alloggio sono dichiarate, comunque sia, numerose testimonianze molto gravi. Frequentemente in Giordania ritroviamo episodi di violenza, prostituzione o anche di persone che semplicemente si comprano clandestinamente la possibilità di uscire, che danno dei soldi a persone fuori per uscire da questi campi, o anche che hanno dato delle figlie in sposa. Si sono ritrovati dei giordani o di altre nazionalità che andavano in questi campi e dicevano: se tua figlia viene sposa ti faccio uscire a te e tutta la tua famiglia. Quindi la situazione è molto complicata in Giordania. In Libano abbiamo detto non è così, non sono nei campi, la situazione è abbastanza confusa. Qui le comunità locali, anche per le passate relazioni tra Siria e Libano, che sono ancora attuali, hanno da subito posto in essere delle reti di aiuto molto forti. In Turchia e in Iraq è ancora un'altra situazione, anche qui la maggior parte si trovano nei campi e per esempio in Turchia sono anch'essi sotto stretta sorveglianza del governo turco. Dico questo perché in Turchia si allaccia un'altra questione, che è la questione di quella curda. Molti siriani curdi infatti sono entrati dalla parte nord della Siria e sono oggi visti come una minaccia stessa del governo turco. Certo. La stessa cosa in Iraq, dove anche qui si va a intrecciare con la questione curda, in questo caso però molti ritrovano proprio nell'autorità del Kurdistan un appoggio e un aiuto. Quindi per riassumere, è una situazione molto varia che però sotto tutti i punti di vista sociale, politico e di diritti e di libertà umane, anche di diritti individuali come semplicemente la libertà di uscire da questi campi, non sono garantite, ed è chiaro come ad un aumento di rifugiati, a un potenziale attacco o all'aggravarsi di questa situazione, il peso andrà ancora di più ad aggravarsi e si sa chi riuscirà a garantire. Esatto, una situazione assolutamente critica. Un grazie ad Anna Di Bartolomeo, ricordiamo il sito del centro www.migrationpolicycenter.eu. Grazie Anna, buon sabato. Grazie a lei, buona giornata. Sono nato in Calabria, a Catanzaro, 1959. Mio padre ha tirato su paesi interi con la sua azienda, ha fatto lavorare centinaia di persone. Io lo guardavo e lo ammiravo. E a 23 anni sono entrato ufficialmente in società con mio padre. Non c'erano in tutta la Calabria aziende come le mie. Dopo i primi appalti a Mongiana, in Calabria, mi ero spostato nelle altre regioni d'Italia. E quando cadde il muro di Berlino andai in Germania, nell'ex blocco sovietico. Perché lì c'era un mondo che nasceva, c'erano appalti, lavori, possibilità, la gente mi voleva bene, tutti mi cercavano. La mia azienda dava lavoro in un territorio che aveva estremamente bisogno di muovere l'economia. E io ero felice di creare lavoro per la mia terra. A Satriano, in provincia di Catanzaro, alcuni uomini armati di fucile. Quello che state ascoltando è un trailer teatrale di uno spettacolo intitolato Padroni delle nostre vite, che verrà portato in scena l'11 e il 12 settembre prossimo dalla compagnia Sciara Progetti. Lo spettacolo è finanziato dall'associazione mafia Nine Danke, e verrà Neukolin, credo che si pronunci così, siamo in Germania. È uno spettacolo ispirato a una storia vera, che è quella di un imprenditore, Pino Mascheri, imprenditore calabrese che ha rifiutato di lavorare con la mafia e ora vive a Torino dopo un periodo di protezione e lotta per la salvaguardia dei diritti dei cittadini. Questo evento si inserisce in una settimana che l'associazione antimafia tedesca dedica al fenomeno mafioso in Germania. Con noi c'è Luigi Giustozzi, che è uno dei fondatori e del direttivo dell'associazione mafia Nine Danke di Berlino. Buongiorno Luigi, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno. E poi c'è Ture Magro, che è l'attore principale, che ha scritto lo spettacolo e che interpreta Pino Masciari. Buongiorno Ture. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Luigi, che cos'è intanto questa settimana della legalità e come mai avete proprio scelto la storia di Masciari? Ma noi siamo alla sesta edizione della settimana della legalità. Siamo fondati nel 2007 dopo i fatti di Duisburg e da allora ogni anno organizziamo degli eventi per sensibilizzare l'opinione pubblica qui in Germania sul problema della mafia. Mm-hmm. L'anno scorso avevamo contattato il gruppo Char per questo spettacolo che loro avevano creato per ricordare i 20 anni della morte di Falcone Borsellino, poi non siamo riusciti a organizzarlo e quest'anno finalmente siamo riusciti a portarli a Berlino. Uh-huh. Tra l'altro avevamo già parlato della vostra associazione in passato, questo desiderio di fare educazione alla legalità anche in Germania, dove troppe persone fingono di credere che non ci sia la mafia, invece fare cultura e anche questo, e lo si fa anche attraverso il teatro. Ture, che esperienza è stata quella di portare sul palco una storia vera, una storia anche tragica, perché è una storia che parla comunque di sofferenza, che parla di sacrificio, che parla di volontà, che parla di coraggio? Sì, è stata un'esperienza molto, molto forte, catartica sotto tanti punti di vista. L'idea di interpretare questo personaggio del sud, Pino Masciari, un imprenditore che decide di non starci all'interno di un sistema che lo vuole inglobare e riesce a dire di no, è stato molto forte interpretarlo proprio come personaggio, come da attore è stato molto molto forte. E con questa grande emozione che ogni giorno lo portiamo in giro nelle scuole, un po' dappertutto. E sei curioso di sapere come reagirà il pubblico tedesco, immagino? Sì, sì, sono molto molto curioso, siamo qui tutta la compagnia molto curiosi di sapere come andrà, di sapere quale sarà il dibattito che si aprirà con il pubblico, perché alla fine di ogni spettacolo si apre sempre un piccolo dialogo col pubblico, un dibattito, se ne parla, quindi abbiamo voglia di capire e di sentire quello che succederà. Mm-hmm. Tanto ricordiamo sciaraprogetti.com è il sito per chi volesse contattarvi. Luigi, un'ultima domanda, ma cosa succede oggi in Germania quando si pronuncia la parola mafia? Quali sono le reazioni? È cambiato qualcosa in questi anni? Ma noi cerchiamo di fare informazione in questa direzione, ma la mafia è considerata ancora una cosa lontana. Noi invece che ci stiamo un po' dietro ci rendiamo conto che la mafia qui in Germania investe, non è presente in modo non fa scalpore, insomma, ma che è presente lo sappiamo e lo vediamo anche quotidianamente. Mafia9danke.de, il sito ufficiale per conoscere tutte le attività. Un grazie a Luigi Giustozzi, un grazie anche a Ture Magro. Ture, dici, sì. qual è l'ultima battuta dello spettacolo? Come chiude? Ce lo puoi anticipare? Lo spettacolo si chiude così, dicendo che ogni persona che ha conoscenza di questa storia allunga la vita di un giorno a Pino Masciari e agli altri testimoni di giustizia. Quindi ogni giorno con il nostro spettacolo allunghiamo la vita a lui e a tutte le altre persone che hanno deciso di condurre questo genere di battaglia e cambiare la propria vita e migliorare il luogo nel quale sono nati e cresciuti. E speriamo di averlo fatto anche noi oggi parlando. Oggi l'abbiamo fatto anche noi sicuramente. Ti ringrazio tanto Federico e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie a te, ciao. E un grazie a tutti gli ascoltatori anche da parte nostra. Un grazie alla squadra, Margherita Ina che come ha scritto la puntata, Valeria Bernardi oggi alla parte tecnica, radio24.it se volete riascoltare e scaricare la puntata, oppure come sempre ci ritrovate su Facebook e su Twitter. Gli account sono quelli di Euronet Plus oppure di Federico Taddia. Ancora ciao, ancora buon sabato e arrivederci, anzi a risentirci. A sabato prossimo, ciao! L'altra Europa in collaborazione con Euronet Plus.